Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Centocinquant'anni di Unità d'Italia sono anche 150 anni di questione meridionale, scrive Renato Brunetta nel suo ultimo libro dedicato ai problemi del Sud. E per aumentare il livello di legalità ed efficienza, il ministro per la pubblica amministrazione lancia una proposta shock, una nuova spedizione dei mille. Un elemento importante per aumentare il livello di legalità e di fiducia è quello legato alle risorse umane. La qualità di un territorio la fa la sua gente. Questo significa che bisognerà avviare un programma poliennale di investimenti non solo in capitale fisico, ma anche e soprattutto in capitale umano, che abbia come obiettivo il superamento del gap di legalità e fiducia nelle aree più a rischio del Mezzogiorno. Ciò significa che in tali aree dovranno essere completamente rivisti i parametri di assegnazione di risorse, tanto nel campo della prevenzione quanto in quello della repressione, così come in quello infrastrutturale. Il tutto potrebbe tradursi in semplici e chiari indicatori differenziali di fabbisogno. Il programma, inoltre, non dovrà essere di natura meramente quantitativa, ma caratterizzarsi per precise valenze qualitative. Non serviranno, cioè, solo più magistrati e più forze dell'ordine, ma soprattutto i migliori magistrati, le migliori forze dell'ordine e dotati dei migliori mezzi tecnologici e di intelligence. Detto in altri termini, serve una nuova spedizione dei mille. Naturalmente, per attrarre le migliori risorse umane, non si potrà unicamente far riferimento al tradizionale richiamo al senso del dovere, ma occorrerà mettere in atto un efficace sistema di incentivi economici, finanziari, di carriera, tali da innescare una competizione al rialzo per andare a svolgere la propria missione in aree tanto difficili, ma anche tanto potenzialmente gratificanti dal punto di vista del riconoscimento morale, civile e, perché no, economico. Esattamente tutto il contrario di quanto si è fatto finora. È chiaro che interventi di questo tipo richiederanno una completa revisione delle norme di reclutamento, carriera, assegnazione, eventuale superamento dell'inamovibilità per i magistrati, remunerazione del personale pubblico coinvolto. Questo forse è il punto di più difficile realizzazione: cambiare le regole del gioco dell'agire burocratico in relazione a una situazione oggettivamente e strutturalmente divergente e di alta pericolosità sociale. Sembrerebbe un punto di buon senso e di relativamente facile acquisizione. In realtà potrebbe diventare l'ostacolo più rilevante. Infatti, l'applicazione sostanzialmente omogenea a tutto il territorio delle medesime regole dell'agire burocratico, senza tener conto delle difficoltà ambientali differenziate, ha di fatto prodotto sino a oggi una selezione al contrario. Il miglior capitale umano e, con esso, la maggior parte delle risorse finanziarie e infrastrutturali e i relativi beni relazionali sono andati a localizzarsi nelle aree di più alta qualità sociale ed economica per ragioni di sinergia facilmente comprensibili. Nelle difficili, pericolose e sgradevoli sedi del Sud sono spesso finiti involontariamente i meno qualificati o più inesperti o, volontariamente, i figli delle stesse borghesie locali che culturalmente e socialmente non sentivano la diversità, ma anzi cercavano, attraverso il ritorno nelle zone di origine, la realizzazione sociale e di carriera, sulla base di valori personali se non conniventi, di fatto neutrali e certamente non in chiaro e palese conflitto con gli equilibri perversi prevalenti in tanta parte del Mezzogiorno. La selezione, al contrario, ha finito per depauperare e svilire ancor più il capitale umano presente nell'area, in uno dei tanti circuiti viziosi che siamo andati sin qui trovando. Naturalmente le eroiche eccezioni che pur in questi decenni ci sono state e che sono state prontamente eliminate o messe nella condizione di non agire non faranno altro che confermare la regola. A titolo di esempio, di recente mi è stato segnalato che una dirigente, la dottoressa Michelina Grillo, ha dovuto addirittura affrontare, superandoli positivamente, diversi processi che le erano stati intentati perché in una sede del Nord aveva applicato con opportuna severità le regole sulle visite fiscali. Questa stessa dirigente, tornata al suo Sud, sta realizzando importanti risparmi di amministrazione. Mi chiedo quante dottoresse Grillo attendono ancora di essere valorizzate. Bisognerà quindi pensare anche a mobilitare le energie locali, che, lo ribadisco, esistono ma sono compresse da un ambiente non favorevole, per affiancarle agli apporti positivi dal nord, i gemellaggi. Per tornare alla metafora dei mille, ricordo che Garibaldi e i suoi, quando sbarcarono a Marsala, trovarono in Sicilia e nel sud nuclei già attivi di insorti, che avevano da tempo preparato il terreno. Uno di loro, Rosolino Pilo, si batté da eroe aprendo la strada ai garibaldini diretti alla conquista di Palermo, dopo la battaglia di Calatafimi. E anche questa, forse, non sarebbe stata vinta se le truppe borboniche, incalzate dall'impeto dei mille, già raddoppiati di numero grazie ai volontari siciliani, non si fossero ritirate per la paura di ulteriori bande di insorti pronte ad accerchiarli. Allo stesso modo, dunque, mentre si cercheranno al nord funzionari e dirigenti pubblici esperti e di comprovata capacità da inviare al sud per portarvi il loro contributo di professionalità e managerialità, l'operazione Pilo, utilizzando le nuove tecnologie, in particolare quelle gestite dai dipartimenti della funzione pubblica e dell'innovazione, dovrà prevedere la creazione al sud di una rete che finora non è esistita, fatta di dirigenti e funzionari pubblici preparati e onesti. Essi verranno incentivati a confrontare tra loro e a inviare al centro proposte di miglioramento, segnalazioni di inveterati ritardi e di inaccettabili disfunzioni, relazioni sulle cose positive che sono riusciti a realizzare, vincendo le difficoltà e le differenze consolidate. Con questi nuovi insorti, a difesa della buona e sana amministrazione, dovranno prendere contatto le tante sedi di eccellenza riscontrate al nord e ognuna di esse dovrà adottare un'amministrazione del sud per instaurare con quei colleghi un dialogo fecondo, fatto di scambi di programmi, metodologie, esperienze. Periodicamente le amministrazioni unite da queste autostrade di buone pratiche daranno conto dei progressi registrati. E non è detto che anche le amministrazioni del nord non debbano avvantaggiarsi di questi scambi, grazie magari a qualche soluzione più creativa inventata dai colleghi del sud. Questo si intende quando si parla di gemellaggi tra pubbliche amministrazioni. Gemellaggi che possono anche valicare i confini delle Alpi per consentire alle strutture amministrative meridionali e non solo di sviluppare relazioni e collaborazioni istituzionali al fine di avvicinare le culture amministrative dei diversi paesi coinvolti e trarne reciproco vantaggio. A livello operativo si può pensare di adattare il progetto comunitario Twinnings ai rapporti tra le aree a diverso livello di sviluppo dei singoli stati membri. L'unificazione del nostro paese, purtroppo, è stata sentita da buona parte del sud come una sorta di operazione di colonizzazione. E la propaganda reazionaria ha avuto buon gioco nell'amplificare questa percezione. Ora, attraverso la nuova rete di scambi di esperienze tra pubbliche amministrazioni, possiamo fare in modo che i cittadini italiani, tanto del nord quanto del sud, arrivino a considerare la pubblica amministrazione una struttura ovunque ugualmente amica e al loro servizio, come si diceva una volta, dalle Alpi al Lilibeo. Per riassumere, si propone una politica di investimenti in beni pubblici, giustizia, sicurezza, ordine pubblico, lotta all'evasione fiscale e alla corruzione, che, se attuati nelle quantità e qualità necessarie, con il massimo di garantismo, il massimo di consenso e per tutto il tempo necessario, può non solo far raggiungere la massa critica della legalità di autoriproduzione, ma indurre una crescita più che proporzionale di beni relazionali, connessi con l'aumentata fiducia. La produttività media sociale, a parità degli altri fattori, ne risulterebbe fortemente aumentata, con effetti di spillover, tracimazione, positivi, in tutti i gangli della società civile ed economica. Avete ascoltato alcuni passaggi dal libro di Renato Brunetta, Sud, un sogno possibile, Donzelli Editore, 202 pagine, 16 euro. In un editoriale pubblicato sulla Stampa, Massimo Gramellini racconta un caso di prostituzione minorile. Arriva una lettera firmata. Racconta di una mamma che, facendo pulizia nella stanza della figlia dodicenne, trova una busta con un migliaio di euro in tagli da 5. Pensa a un furto e ad altre cose orribili, tranne all'unica che, messa alle strette, di lì a poco la ragazzina le confesserà. I soldi sono il ricavato di prestazioni sessuali, eseguite a scuola. La madre è sconvolta dalla scoperta e dalla reazione della figlia, di normalità. In colpa il Grande Fratello e i politici, una volta avremo detto la società, per il pessimo esempio che danno, sorvolando sulle responsabilità di quella famiglia, che sicuramente ci saranno, ma che non abbiamo strumenti per valutare. Un'osservazione si impone inesorabile. La morte del futuro ha cancellato nei ragazzi l'idea di crescita. Un tempo la vita era un percorso e ogni fase consisteva in un passaggio che tendeva a uno scopo, il raggiungimento della consapevolezza di se stessi e di che cosa si voleva diventare. A un certo punto il meccanismo è saltato. La vita ha smesso di essere una scala da salire un gradino dopo l'altro ed è diventata un'arena piatta e senza confini. Ma se manca l'idea di un percorso da compiere, l'unico navigatore diventa l'utilitarismo. Voglio soldi e me li procuro nel modo più facile. Vendo sesso o lo compro, senza pensare alle conseguenze, perché già la parola conseguenze presuppone una coscienza del tempo e dello spazio che non posseggo più. Purtroppo, in un mondo che a casa, in politica, in TV, non fa che togliere ringhiere da tutte le parti, è molto più facile cadere. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Massimo Gramellini, 5 euro, dalla stampa del 17 marzo. Letture di Radio 24. Al Big Sister di Praga, uno dei più celebri club erotici d'Europa, i clienti hanno a loro disposizione, gratuitamente, una delle ragazze del locale, ma devono accettare di farsi riprendere. I video così realizzati verranno poi caricati su un sito a pagamento. Da fuori il Big Sister pare un pub qualsiasi, ma il bancone è vuoto e sotto a funerei tendoni c'è un peruviano con il pizzetto che mi fa firmare il contratto standard. Avrò a disposizione una delle ragazze del locale e in cambio gli lascerò girare un video dell'impresa che venderanno sul loro sito. Il sito è bigsisterlive.com. Per accedere ai video si paga con carta di credito da un minimo di 7,95 euro per una settimana fino a 79,95 euro per 90 giorni. Ce ne sono 16.000 girati con 24.000 clienti in 2 anni. Chiunque sia ad avere escogitato la formula è un genio, perché questa versione porno del Grande Fratello è il club erotico più famoso d'Europa. E per entrare bisogna prenotarsi via email. Mi mettono un braccialetto con il numero 247. Finalmente posso entrare, cioè scendere. Giù c'è un bar, 2-3 ragazze e 6-7 giovani maschi italiani. Attacco bottone. Sono di Napoli, venuti a Praga con un pacchetto turistico low cost. Quello che la sa più lunga, un tipo belloccio, dice: «Ho 25 anni, mica è la prima volta qui. Prima c'erano più ragazze e si poteva venire tutte le sere. Ora solo giovedì e venerdì. Sabato e domenica c'è lo scambio di coppie. Le ragazze erano più giovani, più magre». Big Sister, grande sorella, sì, ma per le forme, altro che Orwell. Se vuoi, ti danno pure il tuo video, ma devi versare 100 corone di cauzione sui 4 euro. Perché la cauzione? Perché ti fanno il DVD e per prepararlo, con il montaggio e tutto, ci mettono qualche giorno. Molti se lo facevano preparare e poi non passavano a prenderlo. Una Big Sister improvvisa uno spogliarello al palo da lap dance. In genere le ragazze sono cieche, ma non si è mai vista una simile concentrazione di cellulite in questa nazione punita da Dio per la geopolitica, ma benedetta quanto a beltà del genere femminile. Tutti si voltano verso una vasca trasparente, un acquario che c'è alle nostre spalle e si vede fluttuare un omone nudo con in mano un bicchiere. Chiedo al napoletano se non ha remore a farsi filmare e mi dice: «Sono stato a Miami questa primavera. Mi mantenevo con i video hard. È un lavoro più duro di quel che sembra. Per un video di mezz'ora devi girare 2 ore. Te lo dice il regista quando puoi venire. I soldi te li danno solo dopo, se tutto è andato bene. E poi qui chi vuoi che li compri, i video del Big Sister? Chi vuoi che ti veda a Napoli? Adesso scarichi video gratis su YouPorn. Sfido che è andato giù. Meglio un bordello, come lo Show Park, fermata a metro Vltavska. Ci sono 30-40 ragazze. Siamo andati ieri. Mezz'ora, 1.500 corone sui 60 euro. Qui, tra consumazioni obbligatorie e ingresso, te ne partono comunque 600. Vado al bancone a farmi una seconda birra. Mi siedo di fianco a un altro cliente. È quello che fluttuava nudo nell'acquario. Si chiama Martin, 35 anni, fa l'informatico. Viene da tempo per la stessa ragazza, Greta. L'ho presentata perfino a mia moglie. Perché sempre la stessa? Così hai un trattamento meno freddo, più affettuoso. Ha già concluso, dice. Viene sempre appena dopo l'apertura, alle 8, così non fa la fila. Anche il napoletano mi ha fatto la stessa rivelazione. Altro che post coitum triste. I più sereni sono quelli che hanno avuto subito il beneficio, come direbbe Arbasino. Gli altri in fila col numerino, come in posta. La barista gestisce il traffico. Pure a Martin, che è sposato e ha una posizione professionale, non importa nulla del video. Il sito farà un migliaio di clienti, vuoi che ci sia qualcuno che mi conosce. Arriva gente, piumini, orecchini, felpe col cappuccio. Tre baresi si appollaiano a un tavolo vicino al bar, attacco bottone. Uno mi offre da fumare. Non credo alle mie orecchie. Fa il marinaio. Manco fossimo nell'Amburgo dei romanzi. Non hanno prenotato e mi spiegano che ti fanno entrare lo stesso, ma devi pagare come in un bordello. È la loro ultima notte a Praga. Ma allora andate in un vero bordello, dico. C'è più scelta. Il marinaio è già stato al Big Sister anni fa. Era meglio. Scendevi in accappatoio. C'erano più ragazze. Video dappertutto per vedere in diretta quel che accadeva in camera. Io ero stato con una carina nella stanza della Barbie. Letto a forma di conchiglia e sopra una pizza di gomma lunga così. Se ne vanno allo Show Park. Li ho convinti. Torno dai napoletani. Uno è di ritorno. Faccia da ragazzino. Si accende una sigaretta e racconta. Sono stato con quella lì che vedi, la Mora. Non è male. Ma ci ho messo un quarto d'ora per eccitarmi. Non mi entusiasmava. Sedere troppo grosso. Nei divanetti di fianco ci sono quattro ragazzi appena arrivati, con l'aria dei muratori in trasferta. Si fotografano a turno, vicino al palo da lap dance, con una bionda che mi sembra la migliore della serata. Non male. Molti vengono per dire agli amici «Sono stato al Big Sister, sono stato porno star per una sera». La barista gli vola addosso. È proibito fotografarsi con le ragazze cancellate. Sono di Messina. Consiglio anche a loro di andarsene in un bordello come il Faux, ma sono già in estasi da strip e non ci sentono. La musica è alta e ironica tra Jingle Bell e Somebody's Watching You. Uno dei messinesi chiede ragguagli al ragazzino di Napoli appena tornato dalle stanze. «Quanto tempo ti lasciano in stanza?» «Un'ora. Prima che scade iniziano a scassare il telefono», dice quello. «E quante ne puoi fare in un'ora?» «Se arrivi presto, mettiamo un quarto d'ora, ti lasciano fare la seconda. Dicono arrivare per dire venire, e io mi godo il gergo erotico del sud, ma comincio a dubitare del risorgimento. Come diceva Enzo Biagi, può considerarsi unito un paese dove la stessa cosa al nord si chiama uccello e al sud pesce? Tutti mi chiedono se ho già scelto. Non ho scelto nessuna, le Big Sister sono davvero troppo big, e la massima trasgressione della serata alla fine sarà fumare in un locale pubblico. Cosa ormai proibita quasi ovunque in Europa. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Antonio Armano Una notte di videosex dal numero 17 del mensile IL Intelligence in Lifestyle. Da una clinica inglese arriva una proposta shock, una lotteria per vincere un figlio su misura. Una lotteria con in palio un ovulo che proviene dall'altro capo dell'Atlantico, così da aggirare le leggi britanniche in materia di fertilizzazione in vitro. È l'ultima trovata di una clinica privata londinese, il Bridge Center, per pubblicizzare i suoi servizi, che di norma sono a pagamento. Il vincitore sarà in grado di scegliere il donatore in base alla sua istruzione, razza ed educazione, risparmiando in questo modo le 13.000 sterline di solito necessarie per avere accesso a questo tipo di trattamento. Un modo di fare che ha suscitato in Gran Bretagna proteste e dubbi di natura etica. Mentre infatti negli Stati Uniti è possibile vendere ovuli ottenendo un profitto e al contempo mantenere l'anonimato, nel Regno Unito la legge impone al donatore di rivelare la sua identità e dirsi disponibile ad essere eventualmente contattato quando il neonato abbia raggiunto la maggiore età. Non solo, il pagamento è limitato a 250 sterline, praticamente un rimborso spese. Risultato? I donatori scarseggiano. Ecco allora che il Bridge Center ha stipulato un accordo con il Genetics and IVF Institute in Fairfax, Virginia, per soddisfare la domanda di ovuli in Gran Bretagna, dove normalmente vengono richiesti da donne tra i 40 e i 50 anni. troppo anziane, cioè per sperare di sottoporsi con successo a terapie di fertilizzazione che usino i loro ovuli. Le donatrici, al contrario, hanno un'età compresa tra i 19 e i 32 anni e devono avere un'istruzione universitaria. Al programma non sono ammessi fumatori o persone in sovrappeso. Prima di scegliere, le clienti britanniche hanno accesso a un dettagliato per quanto anonimo profilo, che include anche le ragioni della vendita degli ovuli. Nel plico sono presenti fotografie della donatrice, quando era bambina, e autoregistrazioni audio che illustrano il carattere. Quando si entra in serie trattative, il cliente ha diritto di richiedere una fotografia aggiornata, un procedimento che può fruttare alla donatrice anche $10,000 per ovulo, se ha la giusta istruzione e caratteristiche fisiche attraenti. Non sorprende, quindi, che la GIVF riceva 500 richieste al mese, anche se alla fine del processo di controllo le donne ammesse al programma si riducono di solito a 2. Per quanto tutto sia anonimo, ha spiegato al Sunday Times Jennifer McCovina, coordinatrice presso la GIVF, alle candidate vengono rivolte moltissime domande. Vogliamo che comprendano l'importanza di questa scelta. Non si tratta di una semplice trafila con un assegno alla fine, anche perché donare gli ovuli è un procedimento lungo e doloroso, che comprende l'assunzione di medicinali potenzialmente pericolosi. L'obiettivo, infatti, è quello di produrre in un solo ciclo mestruale almeno una dozzina di ovuli. Alla GIVF, ha dichiarato Michael Summers, consulente medico del Bridge Center, sono molto più inclini al mercato di quanto non lo siamo noi e usano delle tecniche alquanto creative. Detto questo, a meno che il governo britannico non cambi le regole, Summers prevede che il turismo della provetta verso gli Stati Uniti non può far altro che aumentare. In nessun'altra branca della medicina si tollera un tale cinico sfruttamento dei più vulnerabili, ha tuonato Josefina Quintavalle, fondatrice del gruppo di pressione Comment on Reproductive Ethics. Queste donne mettono a rischio la loro salute solo perché hanno bisogno di denaro. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Mattia Bernardo Bagnoli, La lotteria inglese per vincere un figlio su misura, dalla stampa del 15 marzo.